Say, say. Oh. Oh, a lucky mad. Say, say. The odds at the... We are the G-O-D. Remix one. Remix one. Remix one. Remix one. Emozioni strane, confondendo quello che è falso da quello che è reale. Sento quello che c'ho dentro, vivo di impulsività senza un pizzico di pentimento. Vivo emozioni strane, confondendo quello che è falso da quello che è reale. Sento quello che c'ho dentro, vivo di impulsività senza un pizzico di pentimento. Vivo emozioni strane, confondendo quello che è falso da quello che è reale. Sento quello che c'ho dentro, vivo di impulsività senza un pizzico di pentimento. Vivo emozioni strane, confondendo quello che è falso da quello che è reale. Sento quello che c'ho dentro, vivo di impulsività senza un pizzico di pentimento. Vivo la mia vita strana, al di fuori d'ogni sottoforma di vita mondana. Cavalco la mia strada con l'auto sfigata, osservo una scena ormai malandata, piena di gente in tiro con lo sguardo schivo, aspettandosi l'inchini, manco fosse un divo, usando il cervello che non è recitivo, facendosi il gradasso dentro un corpo di un bambino. Resto così impassibile al disastro, migliaia di pedine unitesi all'incastro, e non c'è posto per il mio corpo mobile, cercando un posto adatto per la mia mente stabile. E vado in panne come non mai, in questo posto di cafoni e di marinai. Lo sai, questo sogno se n'è andato, voi fate gangster ed io sarei lo sfigato. Nel riciclato viverà alla grande, sognando i grattacieli rimanendo in mutande. Tante le storie strane, voi fatevi le pippe che io penso a campare. Vivo emozioni strane, confondendo quello che è falso da quello che è reale. Sento quello che c'ho dentro, vivo di impulsività senza un pizzico di pentimento. Vivo emozioni strane, confondendo quello che è falso da quello che è reale. Sento quello che c'ho dentro, vivo di impulsività senza un pizzico di pentimento. Vivo. Perché la gente fa... Ci sono troppe emozioni, insolite sensazioni. Hey, vivo con le mie 10.000 tentazioni. Sarà che non ci credo, al buio vedo un'immagine si è spenta. E se mi tenta, tento di evitarla, ma è solo un parla parla e non so come fermarla. Ma il bello è che mi taglia, so che volendo io resto muto. So che se mi prende male non chiedo aiuto. Escludo il fatto e ciò che mi fa sbagliare quello che c'è stato. Lo vorrei dimenticare, la circostanza mi avvilisce, ma si intuisce. Non so bene dopo se si capisce che la mia testa implode e dopo esplode, che le mie emozioni ormai sono più vuote. Vivo emozioni strane, confondendo quello che è falso da quello che è reale. Sento quello che c'ho dentro, vivo di impulsività senza un pizzico di pentimento. Vivo emozioni strane, confondendo quello che è falso da quello che è reale. Sento quello che c'ho dentro, vivo di impulsività senza un pizzico di pentimento. Vivo emozioni strane, confondendo quello che è falso da quello che è reale. Sento quello che c'ho dentro, vivo di impulsività senza un pizzico di pentimento. Vivo.